tu canale 10? Un Pinocchi. Beh, orecchione, se veramente ti sei svegliato dal letargo. Vabbè, io ho acceso una decina, un quarto d'ora, minuti fa, sto facendo roba. Ho finito di mangiare poc'anzi, eccetera. Adesso devo fare un tramezzino per mamma e quindi entrerò fra poco. Qua sempre vedo tutto tabula rasa, no? Quindi non sono solo io. Boh, non c'è nessuno, Marco. Ormai io accendo così giusto per... lo sai, mi fa scaldare le radio, però non c'è nessuno. No, qui ho detto a mezzanotte. Gioca la Roma, la Juventus, c'è la Champions, quindi manco Giulio sta entrando perché sono sicuro che sta seguendo il calcio. E quindi niente, dai. Vabbè, due chiacchiere ogni tanto ce le facciamo quando capita e se non pazienza. Yeah. Manda un messaggio WhatsApp a tutti quelli che conosci che entravano, dice, gli mandi, buttateci tutto, vendetevi tutto, fate prima. Grazie tanto mio padrino. Mio padrino ogni tanto fa l'appello, manda messaggi e li porta in radio, no, io non mi interessa, Marco, se c'è qualcuno a scambiare due chiacchiere va bene, se no pazienza, no. Non ho più voglia neanche io, assolutamente. Ho visto ieri c'era il gruppettino sul 23, come tutti i giorni, fanno due chiacchierette, noi non riusciamo a combinare, pazienza, forse a causa ancora del tempo, dell'orario, speriamo un po' più avanti, boh, non so. Vabbè, si vedrà, dai. Vai a fare questo tramezzino a mamma, io un quarto d'ora, non di più, rimango ancora in radio, poi alle 8 ceniamo e poi mi siedo a guardarmi le partite, ok? Sono qua. Perché, ma poi io certe volte la spreco la serata, non credo che faccia molto. Cazzeggio così, scusando, vabbè, il termine si usa, cazzeggiare, ma alla fine non guardo film, non faccio nulla, non... Poi vabbè, ieri c'era mia zia che ci ha aiutato un po' per la cucina, un po' a mettere a posto, e quindi è cosa buona. Pensa che lei facendo, io mi sono seduto qua un attimino sul divano per riposare e mi sono addormentato a bocca aperta. Io sono... questa sonnolenza molesta che viene è una cosa incredibile. Però la notte poi non dormo, la notte non... mi sta venendo veramente a gre dormire, non lo so perché. C'è uno stato d'ansia, non stanotte, due giorni fa, quindi ieri notte, non so, un altro ieri, come lo vuoi dire. Comunque uno stato d'ansia forte, nonostante anche il contributo per dormire ero fino alle 8 sveglio, fino alle 8 di mattina sveglio, poi sono crollato. Alla fine il fisico cede e crolla per forza. Beh, è chiaro che crolla, Marco. Poi tu hai degli orari anche particolari e non è che perciò. Vabbè. Adesso poi torna, cambia l'orario, a quest'ora è già buio, quindi magari ti viene più voglia di stare sveglio, capito? Vabbè, piano piano, non pensare che gli altri ne abbiano voglia, io da quando sono a casa non lavoro più, sono più stanco di prima, lo resto sempre facendo. E vedi bene, sono anche assente dalla radio, perché con la scusa che non c'è nessuno, io che ne ho poca voglia, eccetera eccetera, quindi mi dedico a fare altro, sempre in campagna facendo. Adesso vabbè, c'è un po' già di fango, c'è un po' già di cosettine, però adesso aspettiamo, se qualche giorno non piove diamo una bella pulita. Va bene, sono qua comunque, se vuoi riprendere, ripeto, un altro quarto d'ora, 20 minuti, non di più, perché poi spengo. scarico tutto e vado a vedermi la TV. Eia. Sì, secondo me sono anche gli orari sballati, certe volte magari salto la cena, mi metto a mangiare alle 4 di notte, non è un modo di vivere sano. Purtroppo questa abitudine ce l'abbiamo tutte e due qua, quindi uno trascina l'altro, no? Poi il ritmo, quello che si chiama ritmo circadiano, cioè il ritmo sono sveglia, ad essere costante, cioè a mezzanotte vai a dormire, dormi la notte, per la mattina ti svegli. Ma saltare la notte e crollare all'otto di mattina, sorgi a dormire la mattina non va bene, ti scomussola tutto. Va bene, dai, meglio non pensarci, adesso faccio questo tramezzino veloce e poi rientro, dai, fino alle 8, poi chiudiamo, se ci abbiamo qualcosa da dire, se no ci mettiamo a ululare. Qualcosa da dire c'è sempre, non ti preoccupare, vai, fare quello che devi fare, già siamo qua.